piangerti mai. Se non ti piaci, verrai. Non cambierai. Non cambierai. Non cambierai. Non cambierai mai. Prenditi quello che vuoi e non nasconderti mai. Guarda le spalle che hai. Forse ce la farai. Forse ce la farai. Forse ce la farai. Forse ce la. Forse ce la. Forse ce la. Forse ce la. Forse ce la. Guarda che cielo. Guarda dove vai. Guarda dove.